Brunette è del Centro di Storia Regionale. Da tempo lavoriamo insieme per diffondere anche la conoscenza della storia moderna e nelle sue accezioni, anche con un legame locale. È un percorso che stiamo portando avanti dall'anno scorso e ci crediamo molto anche come biblioteca provinciale. Il nostro compito è quello di promuovere la conoscenza, ma soprattutto anche di stimolare la lettura. Ecco, quindi l'invito caloroso poi anche a leggere, ad approfondire le tematiche che vi proponiamo, e qui abbiamo anche allestito una piccola vetrina. Il professor Andrea Bonoldi collabora appunto docente all'Università di Trento, anche con lui abbiamo instaurato da tanti anni una collaborazione, si fa promotore anche lui di tante iniziative di questa biblioteca e per questa biblioteca, quindi siamo molto contenti e ringraziamo entrambi per l'aiuto e l'apporto che danno alla nostra istituzione, ma soprattutto alla conoscenza per tutti noi. E infine voglio ringraziare di nuovo appunto il professor Andrea Leonardi, che conosciamo già da tanti anni, con il quale abbiamo avuto le piacevoli occasioni di presentare anche altri libri, e quindi questa sera lo ritroviamo con noi con il libro Un innovatore nell'ingegneria dei trasporti del XIX secolo, Luigi Negrelli. Ecco, lascio la parola ai nostri ospiti. Vi ricordo che abbiamo altre due iniziative, una domani alle 17 con il gruppo di lettura che si occuperà del Cuore uno zingaro, l'ultimo libro di Luca Bianchini, e poi la prossima settimana, martedì 22 ottobre alle 17:30, ci sarà il cibo d'amore, la musicoterapia e i disturbi del comportamento alimentare. Questo è un lavoro che stiamo facendo anche col Teatro Stabile, insomma ci inseriamo dentro in un lavoro di inclusione e soprattutto di riflessione sulla salute di tutti noi. Ecco, grazie intanto, buona serata e grazie ancora ai nostri ospiti. Grazie alla direttrice Valeria Trevisan, ringrazio di cuore la biblioteca Claudia Augusta che come sempre per l'ottima collaborazione, per l'ottima organizzazione, e ci terrei a ringraziare in particolare anche Jasmine Farina, con cui sono in contatto da diversi mesi per l'organizzazione di questo pomeriggio, e naturalmente ringrazio gli ospiti che interverranno questo pomeriggio. Sono felice di poter introdurre e poter anche assistere alla presentazione di questo libro, anzi di questi libri di Andrea Leonardi su Luigi Negrelli. Parlo al plurale perché appunto si tratta di una pubblicazione che è uscita da prima in italiano per i tipi del Mulino nel 2021 e poi in traduzione tedesca per Studienverlag nel 2023. Traduzione che peraltro è stata finanziata nell'ambito di un progetto di ricerca del progetto Istoregio, un progetto bilingue transfrontaliero che ha coinvolto le tre università dell'Euregio, Bolzano, Trento e Innsbruck. Uno dei coordinatori del quale era appunto Andrea Leonardi, e specificamente Andrea Leonardi si è occupato, ha coordinato il filone del progetto che riguardava le trasformazioni tecnologiche e il loro impatto sull'arco alpino, tema nel quale si inserisce appieno anche questo lavoro su Luigi Negrelli. Ma naturalmente le ricerche di Andrea Leonardi su questo tema sono state avviate molto tempo prima del progetto Istoregio. Mi raccontava proprio ieri Hans Heis, che avrebbe dovuto essere qui ma che purtroppo non ha potuto raggiungerci, che ricorda appunto le prime ricerche, le prime esplorazioni di Andrea Leonardi nel Nachlass, nell'Ascito Negrelli a Vienna, che risalgono ai primi anni 90, come peraltro ricorda lo stesso autore nella sua introduzione. Quindi si tratta di un libro di due volumi che raccolgono il frutto di una ricerca veramente pluridecennale. Luigi Negrelli, dunque, è il protagonista di questi volumi, che fu un ingegnere dell'impero asburgico, vissuto diciamo nella prima metà dell'Ottocento, di origini tirolesi, del Tirolo italiano, e specialmente noto per la sua partecipazione al progetto del taglio dell'Istmo di Suez, la più importante opera ingegneristica del XIX secolo, e partecipazione tra l'altro la cui natura e identità è stata anche oggetto di polemiche, rivendicazioni, anche battaglie legali da parte degli eredi. Luigi Negrelli, come il lavoro di Andrea Leonardi mostra bene, ebbe anche un ruolo di primo piano nella messa a punto e nell'ampliamento della rete delle infrastrutture di comunicazione, quindi viarie, ferroviarie e idrauliche in Austria, diciamo nel nord Italia e in Svizzera. Attorno, diciamo, alla figura di Luigi Negrelli e alle vicende della sua biografia, e questo accade quando le biografie sono fatte bene, come questa, ecco, attorno alla figura biografata si aprono molti contesti, eventi, dinamiche storiche, piani di indagine che permettono all'autore di toccare questioni molto più grandi, molto più ampie, diciamo, che vanno oltre l'orizzonte delle vicende biografiche, e così in questo libro emergono in modo plastico e vengono discussi importanti aspetti che riguardano la storia politica, la storia della scienza, della tecnica, della cultura scientifica, dell'economia, del paesaggio, delle risorse in area mitteleuropea e nord italiana, ma anche emerge un discorso molto interessante e complesso relativamente al binomio tra tradizione e modernità, tra diciamo conservazione e progresso nel XIX secolo, e non ultimo anche la questione nazionale, dell'appartenenza nazionale nel multinazionale impero asburgico. E la mia impressione è anche che attraverso la figura di Negrelli, il suo percorso professionale che si muove in un contesto multietnico e multilinguistico, è possibile anche far reagire quelle connessioni tra storia regionale, storia locale o storia regionale e storia globale, che è un filone molto, molto promettente, molto interessante della storia regionale, che può essere proficuamente esplorato proprio anche attraverso gli studi biografici. Vorrei solo aggiungere che Luigi Negrelli è un personaggio a me particolarmente chiaro, e mi scuso per la brevissima parentesi, digressione autobiografica, perché è forse il più illustre dei miei compaesani. La casa in cui sono nata, in cui ho passato i primi anni della mia infanzia, nella frazione di Pieve, nella Valle di Primiero, si trova a pochi passi dalla casa natale di Luigi Negrelli, che quindi fa parte in un certo senso del panorama della mia infanzia. E uno dei miei primi ricordi del paese è proprio la casa della famiglia Negrelli. Famiglia che peraltro negli ultimi anni, questo forse è interessante da dire, nell'ultimo diciamo quindicennio, ha avuto anche una piccola fortuna storiografica, e mi riferisco ai membri della famiglia minori, come dire, che non sono Luigi Negrelli, cioè gli altri membri della famiglia oltre a Luigi Negrelli. Personaggi a loro modo interessanti, penso soprattutto al padre di Luigi, Angelo Michele, le cui chilometriche memorie sono state pubblicate, se non erro una decina, forse più di anni fa, che rappresentano un ego documento molto prezioso in prospettiva non solo microstorica e non solo in relazione alla storia di Primiero, oppure anche al lavoro interessante di Cecilia Nuvola su una delle sorelle di Luigi, Giuseppina, e soprattutto sulla storia della memoria di Giuseppina Negrelli, che è stata che partecipò alla rivoluzione hoferiana del 1809, e anche per questo a lei è intitolata la Schützenkompanie di Primiero. Ma mi taccio e passo subito la parola ai relatori di questo pomeriggio, che prima vorrei presentare, sia quelli presenti che la relatrice che ci sente in collegamento, a cominciare dall'autore Andrea Leonardi, che è stato professore ordinario di storia economica presso l'Università di Trento. La sua sterminata lista di pubblicazioni tocca molteplici aspetti, dimensioni e sfumature della storia economica, tra questi il rapporto tra imprenditoria e innovazione tecnologica, soprattutto nel campo dell'approvvigionamento energetico e in quello della modernizzazione delle infrastrutture di comunicazione, che è appunto ambito nel quale si muove anche questo lavoro su Luigi Negrelli. Alice Riegler, che ci sente, credo, e interverrà da remoto, forse possiamo vederla, eccola qua, eccola qua. Ciao Andrea. Ciao, ciao Alice. Ciao. Ecco, Alice è storica e traduttrice, si è formata in storia economica all'Università di Firenze e alla University College di Londra, ed è particolarmente legata a questo progetto editoriale su più fronti, anzitutto perché è lei la traduttrice della versione tedesca del libro, E non solo, si è anche occupata, nell'ambito di un progetto finanziato dall'Ordine degli Ingegneri di Trento, della trascrizione dei documenti in current shrift del Nachlass di Luigi Negrelli, una mole enorme di documenti, una minima parte dei quali, cioè una piccolissima selezione dei quali, è poi confluita anche nell'appendice del volume. E Andrea Bonoldi, che presento per ultimo, ma al quale darò la parola per primo, che è professore ordinario di storia economica all'Università di Trento, anche gli esperto di vari campi della storia economica, si è occupato di associazionismo agricolo e cooperazione in Alto Adige, di politica commerciale daziaria in Tirolo nel XVIII secolo, di mercato in area alpina, e una delle sue aree di interesse, forse più recente, riguarda proprio le trasformazioni economiche tra 8 e 900 in area alpina, con particolare riguardo al comparto elettrico e al ruolo dell'industria del comparto elettrico. E gli do senz'altro la parola. Bene. Grazie. Bene. Grazie. Grazie mille. Grazie Francesca per questa introduzione, un cordiale buonasera anche da parte mia e un grazie di cuore agli organizzatori della serata, Francesca in primo luogo, ma ovviamente anche alla direttrice della biblioteca Valeria Trevisan e al suo staff sempre efficientissimo. Per me è un grande piacere essere qui oggi, è un evento in qualche misura ufficiale, se volete, sempre, no? La presentazione di un libro, ma in questo caso insomma ci sono legami di conoscenza reciproca che vanno ben oltre la dimensione dell'ufficialità con le persone presenti, con Francesca, con Andrea e anche con Alice. Mi dispiace che non ci sia Hans Heiss, che il cui contributo oggi sarebbe stato importante, ma sono sicuro che ci saranno altre occasioni per discutere di queste cose anche con lui. Ora, al di là di questa occasione piacevole, ritengo che tutti noi abbiamo diversi buoni motivi per essere qui oggi. Il primo di questi è l'autore. L'autore è già stato presentato da Francesca. Ora, chi dovrebbe presentare un libro dovrebbe anche mantenere un certo distacco, no, nei confronti dell'autore. Io cercherò di farlo, ma non è facile per me perché non posso e non voglio nascondere il legame di stima, riconoscenza e, lasciatemelo dire, anche di affetto, insomma, che nutro nei confronti dell'autore, al fianco del quale ho avuto modo di lavorare a lungo, ho avuto il piacere e l'onore di lavorare a lungo e di cui conosco la professionalità e la dedizione assoluta nel lavoro e la capacità anche di proporre analisi innovative con punti di vista originali, come traspare anche in questo libro. Insomma, chiunque abbia avuto già modo di prendere le mani capisce che si tratta, come già ha sottolineato Francesca, si tratta di una di quelle biografie che ci consente di aprire delle finestre su tanti temi diversi. Allora, Francesca ha già detto quali sono gli ambiti di ricerca di Andrea, io voglio solo ricordare una cosa, che il volume che si presenta qui oggi è, nella versione italiana, il numero 232 della sua lista delle pubblicazioni scientifiche. E la versione tedesca non c'è ancora nella lista, ma probabilmente è già la 237. Ora, nonostante ufficialmente Andrea Leonardi sia in pensione, continua a scrivere molto di più di quanto scrivano suoi colleghi che ufficialmente non lo sono, ecco, mettiamola così. Allora, il secondo motivo per cui mi fa piacere essere qui è il luogo, no? Perché mi pare giusto parlare di questo personaggio che per molti versi è rappresentativo anche di un certo modo di intendere l'appartenenza al Tirolo storico e alla monarchia asburgica, in una biblioteca che si trova a Bolzano e che ha fatto poi della valorizzazione anche delle vicende storiche del territorio su base rigorosamente scientifica, utilizzando documentazioni di prima mano, raccogliendola anche con un'azione meritoria, una delle colonne portanti del suo lavoro. Ora, alcuni di noi seduti a questo tavolo sono pendolari, nel loro tragitto casa-lavoro transitano attraverso la stazione di Trento, che penso che molti di voi, gentili signori e signore, conoscerete, insomma. Ecco, anche senza aver fatto ricerche particolarmente dettagliate, ritengo di poter affermare che non siano molti i personaggi storici che, come Negrelli, possano vantare due monumenti a distanza di nemmeno 300 metri l'uno dall'altro. Allora, chi conosce la stazione di Trento sa che sul binario 1 c'è un busto di Negrelli, che viene ricordato lì soprattutto appunto per la sua attività come progettista ferroviario. Subito fuori dalla stazione c'è il parco, e lì si trova un monumento che tra palme e cammelli riproduce in forma stilizzata il canale di Suez. Insomma, due monumenti nel raggio di 300 metri che danno il senso della rilevanza di questo personaggio, che è il terzo motivo per cui mi fa piacere poter presentare questo libro, perché lui, Luigi, ossia alias Alois, anche Negrelli, Ritter von Moldelbe, come recita il titolo che gli è stato assegnato dal Kaiser, è un personaggio noto, ma forse non notissimo, e che ha avuto un ruolo cruciale in alcuni progetti che oggi sono essenziali nel sistema di comunicazione europeo e globale, perché i progetti sui quali ha lavorato continuano a essere ancora attivi e fondamentali nella rete di comunicazioni che costituisce oggi l'ossatura fondamentale di quel fenomeno che noi chiamiamo globalizzazione. Perché se l'ideazione e la progettazione del canale di Suez è senz'altro l'opera che lo ha reso più famoso, in realtà si tratta solo della punta dell'iceberg di una indefessa attività di lavoro su infrastrutture viarie e ferroviarie che l'ha visto protagonista non soltanto nel Tirolo storico, ma anche in Svizzera, in Sassonia, in Boemia, nel Lombardo-Veneto. Insomma, è una di quelle figure, oggi si direbbe manager e tecnici internazionali, che vengono ricercati, no, dalle imprese di punta a livello globale per la loro capacità tecnica. Ma non si trattava solo di capacità tecnica, perché la gestione di questi progetti richiedeva anche una visione che andava ben al di là della dimensione puramente tecnica, appunto, e progettuale. Richiedeva anche una capacità di comprendere la dimensione politica ed economica che era legata alla realizzazione di queste grandi infrastrutture. E dalla documentazione che Andrea Leonardi ha analizzato e riportato in maniera così brillante ed efficace nel testo, emerge anche che questo personaggio, al di là delle sue realizzazioni, è un prezioso testimone della sua epoca, attento e sensibile. Le sue valutazioni, le sue osservazioni ci aiutano anche a capire quali sono le questioni che stavano a cuore dell'elite dell'epoca, delle classi dirigenti, e quali erano anche i problemi che erano connessi all'affermazione di un'innovazione così importante. Ecco quindi che dai suoi scritti emergono considerazioni e valutazioni di grande utilità per comprendere quello che era lo Zeitgeist, no? Lo spirito dell'epoca, del tempo in cui è vissuto. Veniamo finalmente al libro. Ecco, qua abbiamo la versione tedesca e la versione italiana. Ecco, vedete anche nella scelta grafica, la versione tedesca ha scelto uno sfondo un po' più seppiato, che richiama un po' più la vecchia Austria forse rispetto a quella italiana, e Alice Riegler ha fatto un ottimo lavoro di traduzione, che immagino le abbia richiesto anche un certo sforzo, perché si tratta di una materia, insomma, che richiede anche una competenza tecnica e una sensibilità notevole. Il risultato mi sembra molto buono da questo punto di vista. Una traduzione questa in lingua tedesca più che mai opportuna, che è venuta nel giro di poco tempo, perché va appunto a coprire una parte importante di mercato interessato ovviamente alle attività di Negrelli, che, come detto, ha lavorato non solo a cavallo delle Alpi, dall'area tedesca all'area italiana, ma ha avuto anche questa dimensione internazionale. Quindi attendiamo l'edizione in inglese, Andrea, per il prossimo futuro. Allora, avendo avuto la fortuna di leggere diverse versioni, no, del lavoro anche in corso d'opera, voglio qui trasmettervi le mie sensazioni da lettore. E lo faccio perché questa mi sembra la sede giusta, insomma, siamo in una biblioteca, non è un momento di promozione editoriale, insomma, e non è nemmeno un convegno scientifico, quindi forse può essere interessante per voi avere il punto di vista di qualcuno che affronta questo libro da lettore. Ecco, da questo punto di vista mi sembra di poter dire che ci troviamo di fronte a uno di quei libri che hanno più strati, che consentono più livelli di lettura diverso. Cioè, sono libri che riescono a dare stimoli, informazioni interessanti all'appassionato tecnico di storia delle ferrovie, al interessato di storia generale, ma anche la persona che apprezza i profili biografici. Ce ne sono diversi libri fortunati che riescono a fare queste cose, ma molti in realtà riescono a indirizzarsi solo a un pubblico specialistico, a un pubblico generalistico. Qui invece troviamo questo mix di riuscito di diversi aspetti che rendono appunto il libro particolarmente stimolante. Allora, in primo luogo sicuramente ci troviamo di fronte a un saggio scientifico, sia per l'impostazione metodologica, per il lungo percorso di ricerca che c'è dietro, è già stato detto, insomma sono 30 anni che Andrea si occupa di questo personaggio, è riuscito a recuperare fonti fondamentali mai utilizzate fino adesso e che hanno consentito anche di smentire alcuni topos storiografici, insomma, portati avanti incautamente a lungo intorno a questa figura, perché anche qui, no, dal punto di vista nazionalistico ha inquinato molto spesso la ricostruzione storica del personaggio. Ma non è soltanto un saggio scientifico, è anche una biografia che si occupa di questioni storiche, appunto, come vedremo, cruciali, leggendole però attraverso il punto di vista di quello che è stato un personaggio specifico. E questo è importante dal punto di vista del metodo storico, perché consentono, laddove appunto le fonti lo permettano, e qui ci troviamo in una di queste situazioni, di focalizzare alcune dimensioni di analisi dell'evento storico che altri tipi di approccio lasciano evidentemente in ombra. Uno studio come questo, che si basa su un'ampia e diversificata documentazione che è stata prodotta dal protagonista in diverse fasi della sua vita, c'è dentro ovviamente di tutto, c'è il curriculum, c'è la lettera personale, c'è la relazione tecnica, c'è il saggio dedicato alla pubblicazione, ci consentono solo di cogliere in pieno l'umanità di un personaggio come Negrelli, ma appunto, come dicevo, ci aiuta anche a capire quali fossero la mentalità e quali fossero i valori di riferimento che ne indirizzavano le scelte e che erano comuni a una certa elite tecnica e politica dell'epoca e che riflettono una Weltanschauung, una visione del mondo che, al di là della specificità, insomma, della vicenda individuale di questo personaggio, è in parte comune ad altri uomini della sua opera. Allora, abbiamo detto, un saggio storico, una biografia con il suo carico di gioie e dolori personali, ci sono anche aspetti molto intimi, se vogliamo, della vicenda di Negrelli, colpisce ad esempio come emerga tutta la sofferenza di questo grande personaggio per un primo matrimonio che è stato senz'altro infelice. Ma anche, questo è un aspetto che per lo storico economico ovviamente è molto interessante e accattivante, è una ricostruzione di una fase cruciale di una innovazione che ha avuto un impatto fortissimo sulla società del suo tempo e che ancora oggi aiuta a svolgere un ruolo cruciale. Ecco, ci troviamo di fronte a una di quelle innovazioni che un grande economista ha definito innovazioni che portano distruzione creatrice all'interno di un sistema, cioè che stravolgono quelli che sono gli equilibri consolidati, distruggendo, no, quelli che gli equilibri che c'erano prima, ma introducendo delle novità che aiutano a migliorare in modo radicale, no, la vita delle persone. Allora voglio fare un piccolo esperimento con voi. Allora provate a pensare, qual è secondo voi l'innovazione che ha cambiato di più, no, negli ultimi anni il vostro modo di vedere il mondo? Allora, internet, penso che siamo abbastanza d'accordo, insomma, che la rete sia una di queste innovazioni che ha aiutato a cambiare il mondo. La rete poi con tutto quello che è connesso, insomma, a questa infrastruttura. Ecco, sì, pensiamo alla nostra quotidianità, molti di noi hanno cominciato le proprie esperienze sentimentali scrivendo lettere di carta all'amorosa, magari per non doverci parlare perché eravamo imbarazzati inizialmente. Ecco, adesso si mandano SMS o si va su Tinder, insomma, si trovano, ci sono strategie alternative, no? Il mondo è cambiato molto da questo punto di vista, anche al di fuori, se vogliamo, della dimensione professionale, no? Anche per quanto riguarda appunto le nostre esperienze più personali. Ma quanto il web abbia cambiato il mondo lo vediamo anche se noi andiamo a prendere la lista di quelle che sono le prime 10 imprese al mondo per valore di borsa. Nelle prime 10 imprese al mondo per valore di borsa, le prime posizioni sono occupate stabilmente dalle imprese che sono attive nel settore dell'information technology, nel settore del web. Se andiamo solo 20 anni fa, c'erano imprese petrolifere, imprese automobilistiche, imprese d'altro genere, no? Cioè il mondo è veramente cambiato da questo punto di vista in maniera importante. Ecco, questa trasformazione radicale che noi abbiamo vissuto con questa innovazione dell'information technology nei decenni centrali dell'Ottocento è stata portata dalla ferrovia, che ha anch'essa un servizio a rete, se vogliamo, in qualche modo, no? Che proprio sulla connessione basava il suo potenziale innovativo, un potenziale innovativo fondamentale perché ha permesso di ridurre costi, tempi di trasporto, garantire la sicurezza delle merci e ha rappresentato così la nervatura, se vogliamo, anche dell'espansione, no? Dell'economia industriale a livello globale, ed è stato anche il luogo che in qualche modo le imprese ferroviarie sono state il luogo in cui si sono affermati i principi organizzativi della grande impresa a livello internazionale. Allora, questo libro è stimolante anche perché racconta a noi dunque che siamo in qualche modo abituati, no, a vivere in un'epoca in cui le innovazioni si susseguono molto rapidamente. Cosa succede invece, cosa è successo in un mondo in cui arriva un'innovazione dirompente come quella della ferrovia e in qualche modo un'occasione per capire cosa significava avere un'idea della modernità e del futuro nel passato, no? Cosa era avere un'idea del futuro nel passato? Cosa significava un'innovazione come questa che portava appunto una trasformazione così importante? Ecco, Negrelli è stato uno dei protagonisti di questa di questo processo, lavorando, come vi dicevo, nell'ambito ferroviario, progettando e dirigendo la costruzione di linee in Svizzera, nel Tirolo, nel Lombardo-Veneto, in Boemia, tra gli anni 30 e gli anni 50, proprio nel periodo in cui esplosa la ferrovia, perché pensate, la prima linea ferroviaria, insomma, viene realizzata in Inghilterra, la prima linea ferroviaria aperta al trasporto di merci e persone alla fine degli anni 20, quindi siamo veramente, no, all'inizio, però è una innovazione che si diffonde rapidamente perché va incontro a un'esigenza che è un'esigenza condivisa. E attraverso la narrazione di queste sue attività, Negrelli ad esempio progetta la prima ferrovia svizzera, quella tra Zurigo e Baden, viene progettata da lui. Il lettore e la lettrice, che sono interessati al mezzo ferroviario, si confrontano con tutta una serie di questioni tecniche, infrastrutturali, ma anche, come dicevo, politiche ed economiche, che hanno accompagnato la diffusione di questo mezzo di trasporto, con Negrelli che poi occupa posizioni di punta anche in imprese ferroviarie, sia private che pubbliche, quindi deve confrontarsi anche con la dimensione politica da questo punto di vista. E in queste funzioni l'ingegnere originario del Primiero, quindi conterraneo appunto di Francesca, ha dimostrato di avere una visione complessiva dell'impatto delle infrastrutture che andava ben al di là della dimensione semplicemente progettuale, tecnica, per comprendere anche la dimensione economica e l'impatto politico-sociale, perché in queste pagine troviamo anche questo, cioè troviamo anche una valutazione di cosa significava la ferrovia per la vita degli uomini e delle donne che si trovavano attorno a questa infrastruttura che avrebbero potuto approfittarne. Quindi non soltanto si fa per dire un ingegnere, ma anche un economista dei trasporti e un attento e sensibile osservatore della sua epoca. Ora, non tutti sono appassionati alle questioni ferroviarie, ma in un altro strato del libro possiamo trovare la vicenda che in generale forse è più nota in associazione alla figura di Negrelli, che è quella della progettazione del canale di Suez. Ora, molti di voi ricorderanno come qualche anno fa, nel marzo del 2021, una nave porta container lunga 400 metri e larga 59, di proprietà di una società giapponese, affittata da una società di Taiwan e battente bandiera panamense, la Ever Given, si sia messa di traverso nel canale di Suez, bloccandolo per circa una settimana. Questo ha portato al collasso del sistema degli approvvigionamenti a livello globale. Ma per una settimana le navi non riuscivano a entrare e uscire dal canale di Suez, e questo ha portato le fabbriche a fermarsi, no? in molte realtà, perché il canale di Suez rappresenta effettivamente il cuore pulsante del sistema della globalizzazione. I critici hanno subito parlato di crisi della globalizzazione, di debolezza dell'infrastruttura, però alla fine del 2021 comunque le navi che erano passate per il canale erano pur sempre 20.694, quindi 57 navi al giorno, e una volta che il tappo insomma è stato tolto, la globalizzazione ha ripreso ovviamente i suoi passi. È fuori di dubbio che il canale di Suez sia una funzione, cioè abbia avuto una funzione centrale nel promuovere la globalizzazione a livello, a partire appunto dal 1869. Non è un caso che gli storici, quando parlino di questa prima fase della globalizzazione, la facciano iniziare proprio nel 1870, no? L'anno dopo, no? Proprio perché questa è stata una tappa importante. E la percezione che questa sarebbe stata un'infrastruttura cruciale c'era già all'epoca, perché all'inaugurazione del canale nel novembre del 69 sulla prima nave c'era Fernando Lesseps, che è stato poi quello che ha portato avanti l'idea di Negrelli, che non ha vissuto sufficientemente a lungo per vedere realizzata la sua opera, e c'era l'imperatrice di Francia Eugenia. Sulla seconda nave che era più grande, c'era Francesco Giuseppe. Quindi insomma no, c'era piena era piena la percezione di quanto importante sia stata quest'opera, che ha consentito di ridurre la tratta tra Londra e Mumbai da 10.000 a 6.000 miglia nautiche, quindi una riduzione veramente importante di questo importante transito tra l'India e l'Europa, e che ha coinvolto ovviamente anche però il traffico di terra, perché la linea aveva senso se veniva alimentata, lo sappiamo oggi, no? C'è sempre la questione delle grandi opere, sono importanti in quanto tali, ma è importante che intorno ci sia una rete che le rende effettivamente utilizzabili. Ed ecco quindi che tutta la struttura ferroviaria europea in qualche modo viene ripensata per essere funzionale ad alimentare questa linea. In questa partita ovviamente entrano anche questioni geopolitiche importanti, perché Francia, Italia, Impero Asburgico, Inghilterra, Impero Ottomano, insomma c'è un gioco anche di interessi politici, di equilibri politici internazionali che si confronta con questa questione. Noi sappiamo poi nella storia anche recente quanto importante sia stato il ruolo del canale di Suez, se pensiamo appunto alla nazionalizzazione che Nasser ne ha fatto, no? Negli anni 50, che ha portato a quella che fosse stata l'ultima guerra coloniale per qualche modo, col tentativo di Francia e Inghilterra di riprendersi il canale. Quindi vedete come, no, le opere su cui Negrelli è stato attivo siano state importanti nel definire alcune dinamiche cruciali della nostra modernità. Consentitemi due ultime considerazioni. Allora, uno è il fatto che questa vicenda ci porta nella prima metà dell'Ottocento. Negrelli nasce nel 1799 e muore nel 1858, che è un periodo che di solito è abbastanza in ombra nella storiografia, no? Recentemente insomma forse c'è stato qualche tentativo di recupero, ma generalmente insomma si presta un po' più di interesse al Settecento e alla seconda metà dell'Ottocento magari, e quindi questo periodo è un po' meno conosciuto. Però leggendo queste pagine insomma ci aiuta a capire come quanto è successo, che è accaduto in questi decenni, in realtà abbia giocato un ruolo importante poi nel definire le dinamiche successive. E l'altro aspetto è che questo libro ci aiuta un po' a portare avanti questa meritoria attività di decostruzione degli stereotipi sulla società alpina, perché non c'è la società chiusa e arretrata e senza storia, come ha scritto Brodel, un grande maestro, no, della storiografia europea, nei suoi libri, ma c'è una società alpina che ha anche caratteristiche di apertura e di capacità di aderire ai processi di modernizzazione. Il padre di Negrelli, Angelo Michele, che è stato prima citato, era figlio di un immigrato di prima generazione, Niccolò, e tra alti e bassi ha una buona formazione, legge, scrive tantissimo, ha una sua proiezione sul mondo, è una proiezione che poi il figlio arriva ad ampliare, e anche il Tirolo insomma comincia ad avere una dinamicità diversa, no? In questo periodo, dopo un periodo di stanchezza. E l'altro aspetto che è interessante, che riguarda anche la nostra dimensione locale, è la sua concezione di patria, no? In qualche modo. Abbiamo questa distinzione che nella lingua tedesca è molto efficace, quella tra Heimat e Vaterland, no? Che cos'è la Heimat, la piccola patria, il primiero per lui, e il Vaterland invece che era una realtà fatta di lealtà dinastica, no? In cui lui, alla cui lui aderiva anche per il suo ruolo professionale. E non era un patriottismo di tipo nazionale come lo intendiamo oggi, era più qualcosa che era legato insomma a una visione del mondo e a una ricerca anche di un'idea di stabilità nella quale lui riteneva si potesse fare, portare avanti il progresso in modo migliore. E quindi lo troviamo anche essere un critico piuttosto tagliente delle avventure rivoluzionarie del 48, del risorgimento, una fusione che a prima vista potrebbe apparire curiosa da un certo punto, no? Cioè quella di un innovatore, di un grande innovatore tecnico che ha idee politiche diciamo moderate o forse addirittura potremmo dire conservatrici, no? Conservatrici. Però in realtà appunto questa combinazione tra l'idea che istituzioni stabili consentano processi di crescita, no? più efficienti, che alla fine finiscono per avere effetti positivi per tutti, è anche uno dei campi di analisi che hanno consentito l'assegnazione del premio Nobel ad Acemoglu, Johnson e Robinson, che l'hanno preso proprio ieri, tre economisti che hanno proprio studiato questi aspetti. E quindi complimenti agli organizzatori che hanno pensato nella data di oggi di fare questa cosa in perfetta coincidenza con l'assegnazione del premio Nobel. E allora lasciatemi concludere adesso con un passaggio che mi sembra particolarmente importante, che è una citazione autografa, insomma, presa da quello che ha scritto Negrelli, perché la sua esperienza professionale anche lo ha portato ad avere una visione che andava al di là della dimensione puramente economica e che assegnava alla creazione di una rete di trasporti facilmente accessibile a tutti una funzione di mezzo per facilitare la conoscenza reciproca e la collaborazione tra i popoli. Allora, Negrelli scrive in un passaggio, ve lo leggo in italiano, allora, mi confortava molto il pensiero che la natura non avesse posto alcuna barriera all'uomo pensante per fare del bene, che ogni paese dove poteva fare del bene era la sua patria e che nessuna sfumatura di opinione politica potesse impedirgli di perseguire il suo scopo. Mi sembra che questa testimonianza dello spirito che ha animato Negrelli nella sua opera sia il modo migliore per concludere questa mia breve presentazione del libro, nella quale ho potuto raccontarvi solo una parte di quello che c'è nel libro, e in questo senso vi ricordo che le presentazioni dei libri non esauriscono il libro stesso. Il modo migliore per apprezzarli è comprarli e leggerli. Grazie Andrea Bonoldi per questa presentazione. Professor Leonardi, vuole aggiungere qualcosa? Magari apriamo. Forse è meglio che parli Alice. Ah, certo, certo. Alice, ci senti? Aspettiamo che accenda la telecamera. Eccola qua. Ecco Alice, mi senti bene? Sì, io vi sento, voi mi sentite? Sì, sì. Sì. Sì, bene. Io se mi permetti vorrei farti un paio di domande rispetto appunto sul lavoro che hai fatto per questo progetto editoriale. Forse la prima è una domanda un po' tecnica che ha a che fare col tuo lavoro di trascrizione e di trascrizione dei documenti, e che però ha a che fare molto con il piano della comunicazione, per così dire, no? Appunto tu ti sei occupata della trascrizione dei documenti dell'Ascito, del Nachlass Negrelli, e quello che mi interessava era proprio la questione del linguaggio, no? E credo che nessuno meglio di te abbia un po' il polso anche del linguaggio utilizzato da Luigi Negrelli. La maggior parte dei suoi scritti, correggimi se mi sbaglio, è in lingua tedesca, anche se ci sono anche se altre lingue, tra cui l'italiano, il francese e l'inglese, compaiono nel carteggio, cosa che è peraltro riflesso anche un riflesso concreto, diciamo, dell'ampiezza e della natura internazionale dei rapporti che lui della rete dei rapporti, anche qua si parla di rete per l'appunto, dei rapporti di Luigi Negrelli. Ecco, la mia domanda, che è anche condizionata dalla mia condizione professionale di studiosa dell'impero asburgico nel XIX secolo, che quindi si affanna su e suda sui documenti scritti in Courant Schrift. Ecco, riguarda soprattutto il tedesco, una lingua che Negrelli apprende con quegli studi, non è la sua lingua madre è l'italiano, ma appunto il tedesco è la sua lingua professionale, la sua lingua di gran lunga prevalente, no? Ecco, la mia domanda è se esiste un'evoluzione di questa lingua, del tedesco scritto di Negrelli nel corso degli anni, come si evolve questa lingua? Peraltro nella nota con cui viene introdotta la appendice documentaria si dice che vi sono diversi errori ortografici nei suoi scritti che sono stati mantenuti nel testo, vi sono anche modi diversi nella scrittura di alcuni termini, specialmente toponimi e nomi propri. Cosa che mi sembra sia anche abbastanza frequente nella scrittura soprattutto del primo Ottocento. Ecco, appunto, com'è questo tedesco di Luigi Negrelli? Allora, si evolve di sicuro il linguaggio, nel senso che all'inizio i documenti dell'Achlas privati, diciamo, la comunicazione con i genitori e i fratelli è in italiano, mentre in tedesco si trovano le lettere professionali mandate ai vari colleghi, appunto, in Svizzera, in Austria e in Germania. Mentre più avanti Negrelli comunque comunica in tedesco con la sua seconda moglie e ovviamente le lettere personali, sì, c'è un'evoluzione, insomma, rispetto a quelle prettamente professionali che manda prima. E come dici tu, gli errori insomma, non c'era un modo uniforme di scrivere, soprattutto toponimi e nomi propri, quindi non è una caratteristica solo di Negrelli, diciamo. Ma posso fare fare, mi senti, Alice? Sì, ti sento. Per esempio, le relazioni ufficiali che invia ai vari ministri, sia sull'aspetto progettuale delle ferrovie che poi in merito al canale di Suez. A tuo parere, la modalità di scrittura di queste relazioni, che dunque sono documenti di un certo peso, dimostrano nel tempo un padroneggiamento crescente della lingua da parte sua? Ma mi sembra che il padroneggiamento fosse buono fin dall'inizio, voglio dire. Certo, probabilmente a forza di scriverne miglioravano, diciamo, però ecco, hanno anche un lessico abbastanza limitato, diciamo, le relazioni tecniche. Secondo me è forse nelle lettere private che si vede che uno ha più possibilità di esprimersi in modo diverso, perché le relazioni tecniche non sono creative, ecco. Sono abbastanza aride, sì, effettivamente. Pur entrando nel Ma le lettere private, sì, quelle secondo me sì, si vede che ha una padronanza progressivamente crescente. usa il tedesco di più anche nella comunicazione privata, ecco, questo sì. Ecco, torno, mi senti, Alice? Sì. Ecco, una seconda domanda riguarda un punto, diciamo, prende spunto da una questione che è stata sollevata prima da Andrea Bonoldi, cioè la questione della Weltanschauung politica, della visione politica di Luigi Negrelli. Ecco, tra i vari personaggi, tra le varie figure di spicco a lui contemporanee con cui Negrelli entra in contatto, che sono appunto che sono relazioni riflesse nel suo carteggio anche, vi è Enfantin, che è una figura molto interessante, che è una figura poliedrica, che si incontra in più punti nel volume proprio per il suo ruolo nel progetto del canale di Suez. E imprenditore, ingegnere ferroviario, leader del sansimonismo, con cui appunto Negrelli entra in contatto proprio in occasione del progetto del canale di Suez. Appunto Enfantin aveva avuto proprio un ruolo, come dire, di vero e proprio pioniere del progetto, nell'idea stessa del progetto, no? Compiendo i primi passi nelle prime ricognizioni, nelle prime spedizioni di ricognizione già nei primi anni 30 dell'Ottocento. Ecco, mi chiedevo, è un personaggio piuttosto sui generis in un certo senso, e forse è interessante proprio vedere come un personaggio di questo tipo entra in reazione con Luigi Negrelli. Ecco, volevo chiederti, alla luce della lettura, dello studio di questi dei documenti che riguardano, che testimoniano questi rapporti, quali sono i punti di contatto tra queste due figure così ideologicamente distanti, quantomeno dal punto di vista politico? Se da questi documenti, da questi carteggi, o carteggi magari che rivolti a persone terze, emerge in un certo senso anche l'opinione che Negrelli aveva di un personaggio come Enfantin e viceversa, opinione che aveva di lui e anche, diciamo, in generale del mondo sansimonista. Allora, Negrelli e Enfantin, come dici tu, erano diametralmente opposti per convinzione politica, diciamo. Enfantin infatti era il capo di una specie di setta religiosa, se vogliamo, che voleva abolire la proprietà privata e raggiungere l'emancipazione della donna e un sacco di altre cause molto progressive che per uno con una profonda fede cattolica come Negrelli di sicuro erano, non so, molto distanti, diciamo, ma dalla loro corrispondenza, che è tutta in francese, è la lingua che Negrelli usava per comunicare a livello internazionale, insomma, emerge che loro erano legati da una visione comune che il ruolo del canale avrebbe avuto, cioè quello di facilitare le relazioni tra i diversi popoli. Questo per Enfantin sarebbe dovuto succedere nel contesto della nuova religione, diciamo, e nell'unione tra Oriente e Occidente che lui sperava di raggiungere. E per Negrelli, di ispirazione molto più cristiana, diciamo, di liberare i popoli dall'ignoranza e dall'indigenza e di portarli, insomma, di raggiungere un progresso sia culturale che scientifico che avrebbe avvantaggiato sia loro che ovviamente l'Austria, cioè lui sempre ricorda, era vantaggio della sua patria. Sì, funziona. Grazie, Alice. Grazie. Domanda io ad Andrea. Allora, una delle cose che ricorrono continuamente quando uno ha in mano una biografia è che ci si accorge che in molti casi l'autore della biografia si innamora del suo personaggio, no? Questo succede molto spesso. Allora, Andrea è stato bravo a mantenere un certo distacco. Allora, si capisce che Negrelli ti piace, no? Però insomma non possiamo forse parlare di un vero innamoramento. Quello che voglio capire è come e perché ti sei avvicinato a Negrelli, qual è stato il motivo per cui hai cominciato a ricercarlo e poi quali sono gli aspetti che nella tua lunga ricerca, gli aspetti di tipo professionale, umano, che ti hanno colpito di più? Grazie, innanzitutto ti ringrazio per la lettura che hai fornito, che è veramente densa di stimoli e capace di andare a toccare alcuni punti che ritengo nodali nel lavoro. E grazie anche per questa domanda. Allora, parto da una premessa. Io Negrelli lo conoscevo per i monumenti che hai ricordato presenti a Trento, perché evidentemente avevo letto delle vicende del canale di Suez, ma solo attraverso la letteratura in lingua italiana, che vi anticipo è totalmente stravolgente la figura di Negrelli. Fa di Negrelli una narrazione che non gli apparteneva affatto. Allora, premetto questo, non lo conoscevo, cioè avevo una conoscenza assolutamente superficiale. Mi viene chiesto dall'allora preside della nostra facoltà, Buzzetti, di organizzare un convegno internazionale sulla figura di Negrelli. Ma dico io non... ma sei tu l'unico storico della facoltà e quindi non possiamo che rivolgerci a te. Ero appena diventato associato. Vabbè, collaborazione con la Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, che mi dice sei componente della direzione, te ne devi occupare. Allora, cerco chi si è occupato di Negrelli. Mi dicono c'è una studiosa dei diritti d'autore che ha già fatto una serie di pubblicazioni, aveva scritto alcuni articoli e sta producendo una monografia. Leggo questi articoli, la monografia non era ancora uscita, nel frattempo entra in gioco il presidente dell'allora comprensorio di Primiero, che mi dice, tu ti occupi di storia, valorizzaci questo personaggio. Raccolgo diverse adesioni da studiosi italiani, studiosi austriaci. Mi sono rivolto ad Adam Wandruska, che era il patriarca degli storici austriaci di Vienna. Conoscevo uno studioso viennese che era il responsabile della Handschriftensammlung della Österreichische Nationalbibliothek, che mi dice abbiamo diversi documenti su Negrelli qui nella nostra biblioteca. Vieni, presentaceli. Insomma, una presenza di studiosi di Trieste. A Trieste c'era una sezione importante di studi legati all'importanza che il canale aveva rivestito per la città di Trieste, in effetti è emerso in termini macroscopici poi nel corso della ricerca. Insomma, organizzo questo convegno. La parte politica si era occupata di far venire il ministro un sottosegretario del governo italiano, l'ambasciatore egiziano in Italia, il ministro del canale, e che mi hanno spiegato, il ministro del canale, dopo il presidente in Egitto, è la persona che conta di più, perché dal canale in quel momento c'erano le entrate maggiori in assoluto che il governo egiziano, di cui il governo egiziano poteva contare, su cui poteva contare. Quindi viene fuori un convegno importante, con relazioni importanti. Un giorno, durante questo convegno, a un certo punto scoppia una polemica enorme. Perché? Perché questa studiosa dei diritti d'autore, Zara Olivia Algardi, sostiene a pieno volume l'italianità di Negrelli. Al che interviene uno studioso di Bolzano che dice «Ma quando mai sua madre Elisabeth Württemberg veniva da Rattenburg e quindi era una tirolese, lui non ha niente a che spartire con l'italiano». Interviene lo studioso viennese, István, che era di origine ungherese, István Németh, e porta dei documenti in cui Negrelli dichiara «Ich bin Tiroler, rein dynastisch». Come fa l'altra a dire che è italiano? Allora, qui dico bisogna cominciare a fare un po' di luce. Attraverso la collaborazione di Stefan Németh vado a Vienna assieme a Hans Heiss e il Nachlass, questo mi aveva detto, c'è questo grossissimo fondo ed è custodito nel Technisches Museum. In quel momento il Technisches Museum era chiuso per restauri e tutta la documentazione archivistica era stata spostata in una caserma fuori di Vienna. Quindi andiamo in questa caserma, siamo dovuti passare attraverso le guardie armate, insomma, mi sono fatto portare dei pezzi di documentazione e lì ho visto subito che questa documentazione era di assoluto rilievo. Cioè, ho preso a caso, come si fa quando ci si accosta ad un archivio di cui non si sa niente, c'era un inventario di massima fatto nel 1910 che era stato consultato da uno studioso, notate bene, uno studioso, Alfred Birk, che era un professore del Politecnico di Praga, che aveva pubblicato due volumi biografici su Negrelli, uno nel 1915 in piena guerra e l'altro nel 1925, in cui dava evidentemente notizie su documentazione di prima mano, dopodiché nessuno aveva più toccato quei documenti. A quel punto, tu mi chiedi come ho fatto a interessarmi, su intervento del comprensorio di Primiero che dice se studi Negrelli ti finanziamo la ricerca, provvediamo noi a sostenere i costi della ricerca. Il mio dipartimento mi pagava semplicemente le missioni a Vienna che io facevo, ma come fare a studiare tutto questa documentazione? Si tratta di oltre 2500 unità documentali. L'inventario del 1910 parlava solo di 1800, quindi 700 le ho scoperte io dopo. Completamente no, ma unità documentali vuol dire anche fascicoli di 40, 50, 80 pagine l'una, perché le relazioni erano estremamente dettagliate, poi le lettere e la corrispondenza scriveva in maniera incredibile, la seconda moglie scriveva anche 3 lettere al giorno quando era lontano, non c'era internet, non c'erano i telefoni, ma è incredibile, Alice che le ha trascritte evidenzia questi passaggi, cioè una consuetudine incredibile. Nelle lettere, ovviamente ci sono le lettere private, portano tutta una serie di riferimenti personali, sono argomentazioni private, familiari, però tratta anche nelle lettere private di argomenti di pubblica, di relazione pubblica, cioè dice quello che sta facendo, che rapporti ha avuto con Tizio Caio Sempronio, con gli altri progettisti piuttosto che non con i politici, e dice fuori, senza peli sulla lingua, che cosa pensa del politico tale piuttosto che del tal altro, e quindi sono anche molto importanti da questo punto di vista. È molto più compassato nelle relazioni ufficiali, quando deve dar conto di un certo tratto di ferrovia piuttosto che della scelta di un tragitto della ferrovia, dice non bisogna farsi prendere dalle logiche di campanile, noi dobbiamo mirare allo spirito di servizio, cioè a che cosa serve tracciare una linea ferroviaria in un determinato ambito piuttosto che non in un altro. Dobbiamo rispondere ai bisogni di un territorio e quindi cercare di prescindere completamente dalle spinte di carattere politico o di carattere personalistico che ti imporrebbero certe scelte, scelte che non sono legate al pubblico servizio, tanto per dirvi quello che compare anche nelle relazioni pubbliche. Beh, insomma, quando ho cominciato a prendere in mano questa enorme mole di documenti, ho visto la grandezza del personaggio. Era un personaggio che dialogava con tutti i più importanti personaggi del suo tempo, dai politici, da Metternich a von Bruck, a Hubert Kubau, ai grandi banchieri, dai fratelli Perey a Rothschild, quindi aveva relazioni di carattere economico, politico e soprattutto di carattere tecnico, non solo con i tecnici, ma con gli esponenti di punta della società del suo tempo, e aveva una visione straordinaria. Vi dico semplicemente questo: quando compie il suo primo e unico viaggio in Egitto, tra il 1855 e il 1856 riesce a colpire il pascià egiziano, il Khedive, cioè il viceré d'Egitto, così come i tecnici che lavoravano da decenni a servizio dell'Egitto, come il personaggio di maggior visione che rappresentava la comunità scientifica internazionale. Il viceré d'Egitto aveva chiesto una valutazione dei vari progetti che erano stati realizzati fino a quel momento attorno al progetto del taglio dell'Istmo di Suez e voleva che una commissione internazionale li valutasse tutti per scegliere quello che aveva maggior probabilità di successo. Negrelli è chiamato a far parte di questa commissione che vede i più importanti esponenti della tecnologia di tutti i paesi d'Europa e dell'Egitto e quando va a fare il suo viaggio in Egitto c'è una lettera del Khedive Mohammed che viene mandata al presidente del primo ministro austriaco Buol Schauenstein che dice: sono rimasto impressionato dalla straordinaria capacità di visione che ha l'ingegner Negrelli. Parallelamente, il responsabile di tutto il sistema idrografico dell'Egitto, che lavorava, era francese, si chiamava Bellefond, era a servizio dell'Egitto da oltre 20 anni, dice: avendo accolto questa missione di studiosi internazionali, ho potuto vedere come la capacità di Negrelli sia straordinariamente superiore a tutti gli altri tecnici. Ecco, tanto per dirvi, vedere questo tipo di documentazione ti spinge ad andare più a fondo, vedere, confrontare, vedere che cosa ha scritto su Negrelli. E ci sono le cose più strane, le cose che hanno fatto di lui un eroe risorgimentale, per esempio. La letteratura italiana dà questa visione e lui dice: Garibaldi è un... Non vi dico i termini che utilizza lui, piuttosto che dire Carlo Alberto è un filibustiere. Cioè proprio ha una visione lui è austriaco fino alle midolle. Come diceva giustamente, il suo Vaterland è la monarchia asburgica. Se poi andiamo a vedere qual è la sua Heimat è Primiero, ma Primiero in senso proprio che ha un amore smisurato per la sua terra d'origine, ma il Tirolo per estensione. Ich bin Tiroler, lo dice chiaramente, senza... E quindi vedere che tutta la letteratura italiana ne ha fatto un eroe, dici, ma dove sono andati a pescare queste notizie? Cioè è bastato che qualcuno si inventasse questa cosa e tutti come pecoroni gli sono andati dietro e nessuno si è preso la cura di andare a leggere ciò che lui effettivamente ha scritto. Perché è faticoso leggere. Certo, difatti non è che ci ho impiegato 2 anni. E io a questo, rispetto a questo discorso avrei un'altra domanda, una richiesta di approfondimento. Rispetto soprattutto al momento, allo spartiacque del 48, al quale è dedicato anche un capitolo. Allora, diciamo, la visione politica di Negrelli è stata, insomma, è stato ripetuto anche da lei adesso quale fosse. Però la mia domanda è anzitutto come il 48 irrompe nella sua vita professionale, soprattutto in particolare professionale, non tanto in relazione alle sue opinioni politiche, ma anche invece in relazione alle sue opinioni politiche. Cosa pensa Negrelli non tanto del momento rivoluzionario ma di quello costituzionale, no, portato dal biennio 48-49? Allora, già l'ha precisato Alice nel suo intervento prima, Negrelli era sostanzialmente un conservativo, cioè è leale suddito della monarchia asburgica. Quando però scoppia la rivoluzione del 48, lui dice: dobbiamo stare attenti. È attento, c'è una lunga corrispondenza con alcuni suoi amici svizzeri e l'anno prima era successa il conflitto tra i cantoni protestanti e quelli cattolici all'interno della Confederazione Elvetica. E lui dice: guardate che state facendo un errore madornale, voi che siete repubblicani rispetto alle monarchie, spingendovi troppo su terreni rivoluzionari, potrete correre il rischio di veder decadere tutto il benessere che avete costruito. Quando però nel 48 cominciano i moti rivoluzionari in diverse parti d'Europa, lui abbraccia immediatamente la scelta costituzionale. L'abbraccia. Dice, è fedele alla monarchia, però dice la monarchia in buona sostanza deve adeguarsi, deve aprirsi, deve innovarsi. Poi quando conosce degli eccessi che avvengono a Vienna nel marzo del 48 e vede costretta la sua famiglia a partire da Vienna, a rifugiarsi dapprima in Boemia e poi non si sente sicura nemmeno lì comincia a cambiare idea. Cioè i fatti che hanno colpito la sua famiglia, era la seconda moglie, aveva dei bimbi di pochissimi anni e pochissimi mesi, e quindi era preoccupato perché lui era impegnato nella realizzazione delle ferrovie per conto delle Staatsbahn, delle ferrovie dello Stato, e quindi è estremamente preoccupato. Quando poi il governo lo chiama, lo nomina sottosegretario sostanzialmente ai trasporti, e lui dice: ma quanto rimarrò, perché è un governo che chissà quanto durerà, qualche settimana, qualche mese, ma vedremo. Quando il governo lo manda nel Regno Lombardo-Veneto per cercare di ricostruire le infrastrutture di comunicazione, quindi strade e ponti, e le prime tratte ferroviarie che erano state danneggiate dai moti rivoluzionari, lui diventa ancora più rigido. Diventa ancora più rigido perché vede gli esiti dei moti rivoluzionari. Non è che associ immediatamente i moti quarantotteschi nel Regno Lombardo-Veneto, li associ a eventi di carattere nazionale, no? O nazionalistico italiano. Li vede come pericolo per l'unità della monarchia asburgica, come elemento che può mettere in discussione l'autorità costituita. Del resto in Austria si era passati da un personaggio che stava ai vertici, cioè l'imperatore Ferdinando, al giovane imberbe Franz Josef. Cioè, è vero, Ferdinando lo apprezza perché gli aveva dato il titolo di cavaliere, l'aveva nominato, quindi l'aveva nobilitato, l'aveva nominato cavaliere di Moldelba con il predicato von Moldelbe, in riconoscimento delle ferrovie che aveva realizzato nella regione di confluenza della Moldava nell'Elba, e quindi aveva scelto lui questo titolo. Lo apprezza. Lui dichiara piena fedeltà all'imperatore Ferdinando anche quando avvengono i moti viennesi. Quando arriva il giovane imperatore nuovo, Francesco Giuseppe, non è che si esprime, ma manifesta sempre la assoluta fedeltà alla monarchia. Ribadisco però, quando vengono concesse i diritti costituzionali, lui apprezza questi diritti. Poi tende ad essere più conservativo. E nel Regno Lombardo-Veneto non manifesta alcun tipo di simpatia per i rivoluzionari italiani. Anzi, proprio lui, dal punto di vista tecnico, è il braccio destro di Radetzky. In maniera assoluta. Non so se ho... Grazie per la risposta. C'è qualche domanda da parte del pubblico? Qualche? Prego. Se devo... Ma no, serve perché sennò non si sente. Grazie. Visto che prima si parlava del collegamento tra la rete ferroviaria, la nostra esperienza della rete di internet e così via, poi di quanto anche la stessa progettazione del canale di Suez dovesse essere a vantaggio della comunità. Quindi mi viene in mente, da un lato, le nostre preoccupazioni nei confronti dello sviluppo, diciamo così, di internet adesso, dell'intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, ma mi viene anche in mente che il fratello di Luigi Negrelli, al termine delle memorie del padre, quasi quasi dà la colpa a Luigi del fatto che, avendolo portato sulla ferrovia, gli ha fatto conoscere Radetzky, cioè quell'esperienza in qualche modo ha determinato l'esperienza della velocità del treno, in qualche modo ha determinato la fine del padre, in un certo senso, sotto, in qualche modo, in modo tacito. E volevo capire se l'esperienza, in qualche modo, della costruzione delle ferrovie fosse avversata da una parte della popolazione, creasse le stesse preoccupazioni che abbiamo noi oggi nei confronti dello sviluppo tecnico, ecco. Altro che, allora, le dico, quando realizza il progetto della Zurigo Basilea, deve scontrarsi con la popolazione del posto, che va a togliere i picchetti nottetempo che erano stati messi lungo il tracciato dove avrebbe dovuto passare la linea, per ostacolarne la realizzazione. Quando qualche anno dopo è chiamato nel Tirolo, lavorava ancora in Svizzera, quindi siamo nel 38, è chiamato nel Tirolo per individuare il tracciato più propizio per la linea Kufstein-Innsbruck, e quindi che doveva collegare Innsbruck con la Baviera, trova il medesimo tipo di difficoltà, cioè i proprietari dei terreni lungo i quali avrebbe dovuto correre il tracciato ferroviario si oppongono drasticamente, e lui sostiene in una pubblicazione, il suo volume più importante, non è che ne abbia molti, comunque del 1838, di Reise nach England, cioè che dà il resoconto del suo viaggio in Francia, Inghilterra e Belgio per studiare le ferrovie. Lui dice: für die moderne Staaten, per gli stati moderni, die Eisenbahnen unentbehrlich sind, wie die Fabriken unentbehrlich sind. Cioè, per gli stati moderni le ferrovie sono indispensabili come sono indispensabili le fabbriche. Quindi lui sposa pienamente l'innovazione tecnologica, ma si scontra, si deve scontrare continuamente con chi è affetto da misoneismo, quindi di avversione alla novità. Anche se poi, man mano che la novità diventa crescentemente concreta, ecco che al misoneismo subentra invece un utilitarismo di campanile o di piccolo cabotaggio. Cioè, voglio che la ferrovia passi vicino alla mia fabbrica, piuttosto che la stazione sia all'interno di un'area ben precisa, in termini tali che possa trarre valore dagli immobili che ci sono in quel contesto. Quindi c'è un duplice atteggiamento, un atteggiamento di ostilità iniziale che si converte, si trasforma in utilitarismo di basso profilo in un secondo momento, e deve combattere contro questo, combattere contro i portatori di interessi in senso spicciolo, ma anche contro i politici che sostengono questi portatori di interesse di piccolo cabotaggio. Sì, anche se poi ci posso aggiungere una cosa, in questi processi ci sono sempre dei morti e feriti sul campo, comunque, perché questa innovazione, se pensiamo alla linea del Brennero, ha portato alla scomparsa delle zattere che facevano trasporto lungo l'Adige, ha portato alla fine del business dei carrettieri e delle diligenze, e ha avuto anche un impatto sull'attività manifatturiera locale, perché grazie alla ferrovia arrivavano prodotti industriali a basso costo, che hanno messo fuori il mercato le piccole produzioni, una parte importante delle piccole produzioni manifatturiere locali. Quindi quello che si diceva prima, no, è distruzione creatrice, no? Arriva questa novità che poi avrà sbocchi importanti, potrà maggior benessere, ma è una novità non a costo zero, perché richiede poi una trasformazione della società, insomma, e gli interessi sono anche contrastanti da questo punto di vista. Per l'opera Il canale di Suez, il contributo che ha potuto portare Negrelli riguarda lo studio e l'idea o ha partecipato anche alla stesura del progetto e il suo rapporto con le SEPS? Ecco, se c'è stato, qual è stato? Allora, diciamo così che il canale di Suez non è frutto di una genialità unica. È frutto di un apporto di un'equipe di studiosi che hanno realizzato il progetto esecutivo. Però tra i vari progetti che sono stati realizzati a partire dall'inizio degli anni 40 fino all'inizio dei lavori, che datano al 1859, ecco, in quel lasso di tempo il suo progetto è quello, che non era un progetto esecutivo, era un progetto di massima, è quello che è stato adottato nel 1856 dalla Commissione Tecnica Internazionale, che, come riporta il verbale redatto a Parigi nel 1856, prevede un canale sans écluse, cioè senza chiuse, perché tutti gli altri, compreso quello di Bellefonds, che era il più organico fino a quel momento realizzato, prevedeva delle chiuse nello sbocco del canale nel Mar Mediterraneo e a Suez nello sbocco sul Mar Rosso. Quindi diciamo così che l'apporto che lui ha fornito a partire dal 1847, quando redige la prima grande e dettagliata relazione su come deve essere il canale, fino alla sua ultima redazione del 1856, è quella di un canale senza chiuse, che deve sfruttare i laghi salati presenti tra la penisola del Sinai e l'Egitto, e prevede che la rottura, lo scavo vero e proprio, sia realizzato solo nella parte settentrionale e in quella meridionale del canale stesso. Allora, l'ESSEP che cosa ha fatto? L'ESSEP non era un ingegnere, non era un tecnico, era un diplomatico. L'ESSEP entra in gioco solo a partire dal 1854, quando viene assassinato il Khedive egiziano, che non era interessato alla realizzazione del canale, perché era, qui c'è una vicenda piuttosto complessa, tutti i progetti che erano stati realizzati precedentemente e soprattutto l'azione che ha svolto la Société d'Études del Canal de Suez, che era stata organizzata dai Sansimoniani e in cui era entrato come esponente del mondo austro-tedesco Luigi Negrelli. Questa società aveva realizzato un progetto di massima, aveva confrontato i progetti di massima realizzati dagli ingegneri al servizio del Khedive egiziano e quello realizzato da Negrelli. Ebbene, questi progetti erano arrivati ad un grado di dettaglio ormai molto, molto preciso. Cosa fa l'ESSEP? Nel 54, avendo avuto dei rapporti con il nuovo viceré egiziano quando questi era molto giovane, lo ricontatta e si fa artefice promotore dei progetti studiati dalla Société d'Études, con il pieno assenso della Société d'Études. All'interno della Société d'Études c'erano tre gruppi: il gruppo francese, composto dai Sansimoniali, il gruppo austro-tedesco, chiamato gruppo tedesco, che è pilotato da Negrelli, e un gruppo inglese che è guidato da Robert Stevenson, il figlio dello Stevenson, ideatore della macchina a vapore, lui pure ingegnere, e responsabile di un'impresa ferroviaria che gioca su due fronti. Un fronte come componente della Société d'Études per studiare il canale e il tracciato del canale, come imprenditore per realizzare una linea ferroviaria Alessandria-Cairo-Suez, che è la linea ferroviaria sostenuta dal governo britannico, che è fortemente avverso alla realizzazione del canale. Perché è avverso? Perché vede il canale come iniziativa fondamentalmente francese e teme che, se viene realizzato, la Francia possa affiancarsi nel dominio fino a quel momento pressoché monopolistico nel controllo dei traffici tra Europa ed Estremo Oriente, e quindi avversa in tutte le maniere la realizzazione del canale. Lesseps dà ulteriore spazio, attraverso i suoi collegamenti diplomatici, alla idea del canale, e quindi trova l'appoggio del nuovo viceré egiziano, però non può accreditare l'iniziativa del canale come iniziativa esclusivamente francese, perché cozzerebbe contro l'avversità britannica e troverebbe un ostacolo insormontabile. Perché? Perché la diplomazia britannica ha un potere straordinariamente forte sulla Sublime Porta di Costantinopoli, che è l'autorità suprema che regola anche le vicende egiziane, cioè il viceré d'Egitto dipende dal sultano di Costantinopoli, e il sultano di Costantinopoli è totalmente dipendente dalla impostazione britannica. Quindi c'è un insieme di vicende estremamente complesse. Che ruolo gioca Negrelli e l'Austria? Perché qui è importante notare. Negrelli gioca per far assumere a quella che dovrebbe diventare la Société d'Exécution, si chiama così, la trasformazione della Société d'Études in Société d'Exécution, quindi in società che realizza l'opera, farla trasformare in senso plurinazionale, e quindi non come iniziativa francese. Per farla trasformare in iniziativa plurinazionale c'è bisogno dell'apporto dell'Austria. L'Austria ha un ruolo fondamentale perché non è una potenza marinara, non ha ambizioni di carattere coloniale sull'Estremo Oriente, quindi giocherebbe come una sorta di potenza super partes. Solo che all'interno del governo asburgico c'è un insieme di ministri che sono assolutamente schierati per il canale, e quindi a fianco di Negrelli, e il primo ministro, il cancelliere Buol Schauenstein, che è invece nettamente contrario perché è filo britannico e non vuole perdere l'appoggio della Gran Bretagna, perché la Gran Bretagna è quello che è quella potenza che può sostenerlo nei problemi interni e internazionali che il governo austriaco ha, quindi nelle lotte risorgimentali nel nord Italia per l'eventuale perdita del Regno Lombardo-Veneto, che era un territorio particolarmente importante per l'economia asburgica di quel tempo, nel controllo della penisola balcanica ha sempre bisogno dell'appoggio britannico, quindi non vuole inimicarsi in alcun modo la potenza britannica, e quindi si schiera contro il canale. Metternich, che è fuori gioco dal 1848, però ha una notevole influenza sul governo asburgico in essere, si barcamena, è un cerchio bottista, come si dice, un colpo al cerchio e un colpo alla botte, per certi versi si dichiara favorevole al canale, per certi altri invece sostiene Buol Schauenstein nel suo rapporto con l'Inghilterra. Negrelli fa pressione fortissima per la realizzazione del canale e ha dalla sua in particolare due ministri, von Bruck, che è un triestino, e dunque Trieste è certamente l'area più direttamente interessata alla realizzazione del canale, perché sulla realizzazione del canale preme il Lloyd austriaco, quindi la compagnia di navigazione austriaca che vuole potenziarsi, vuole uscire dal Mediterraneo, vuole diventare una compagnia di navigazione mondiale, quindi preme per la realizzazione del canale. C'è il comune di Trieste, c'è la borsa o camera di commercio triestina che preme e dice per se si realizza il canale noi avremmo una potenzialità enorme, un po' quello che è successo per la Via della Seta. Trieste era certamente schierata qualche anno fa totalmente per la realizzazione del progetto della Via della Seta, perché intendeva ripristinare le sue glorie che sono finite nel 1918, perché con l'annessione all'Italia Trieste ha perso totalmente la sua importanza come punto di riferimento per tutta l'area mitteleuropea, no? Quindi non avendo più entroterra è crollata l'economia triestina e il recupero è stato lentissimo e non è ancora completato. Per farvela breve, nel governo asburgico c'è un conflitto interno, su questo conflitto interno Negrelli non riesce ad avere la prevalenza, anche se sostiene, ecco, il rapporto con le SEP. La storiografia italiana dice che Lesceppe è il scippatore, è quello che gli ha portato via il progetto, ha fatto suo ciò che Negrelli aveva realizzato. Lesceppe aveva inizialmente il pieno assenso della Société d'Études e quindi di tutti i progetti che erano stati realizzati nell'ambito della Société d'Études e dunque anche quello di Negrelli. A un certo punto, quando la Société d'Études si accorge che l'ESEP vuol fare da solo, lo scarica. Però viene scaricata da l'ESEP stesso, che ormai ha allacciato una serie di rapporti internazionali importanti, soprattutto dal punto di vista finanziario, perché è riuscito a avere rapporti con i maggiori finanzieri dell'Europa continentale, cerca di avere i rapporti anche con la finanza britannica ed è un passaggio fondamentale quando viene approvato il progetto Negrelli, chiamiamolo così, quello Saint-Écluse, no? Che nella Commissione internazionale dice, lo dice espressamente in due lettere Negrelli, una che scrive alla moglie e un'altra che scrive a un banchiere triestino con cui era in rapporti molto stretti, Pasquale Revoltella, in cui gli dice dopo lunghissima discussione è stato approvato il mio progetto e a dare l'assenso al mio progetto è stata anche la Marina Britannica e la Marina Francese. L'assenso della Marina Britannica, dice, è molto significativo perché probabilmente riuscirà incidere anche sul governo del suo paese, cosa che non è avvenuta. Dopo c'è una sorta di nemesi storica, no? Gli inglesi che avevano combattuto in tutti i modi la realizzazione del canale, che mettono in difficoltà l'avvio dei lavori, poi facendo acquistare la quota di maggioranza delle azioni emesse dalla Société Générale del Canal de Suez al viceré d'Egitto, quando questo si trova ingolfato di debiti e non riesce più a pagare gli interessi, gli comprano per una pipa di tabacco le sue azioni e diventano loro i padroni del canale fino al 1956, quando interviene l'ESEP. Negrelli non è riuscito a vedere nemmeno l'inizio dei lavori. Prima che lui morisse s'erano iniziato i lavori solo del canale d'acqua dolce che portava l'acqua dolce dal Nilo verso la zona di scavo del canale per fornire tutte le decine di migliaia di operai che avrebbero lavorato, i semi schiavi egiziani, perché hanno lavorato in condizioni impressionanti, e quelli e gli operai arrivati dalla Grecia e dall'Italia che affiancavano i lavoratori egiziani. Ecco, era iniziato lo scavo del canale d'acqua dolce e c'è una corrispondenza con il presidente della Commissione internazionale, che è un olandese, Conrad, che gli dice finalmente abbiamo iniziato lo scavo di questo però canale, non del canale vero e proprio, perché il canale vero e proprio avrebbe visto l'inizio dei lavori solo l'anno dopo, con una forzatura da parte di Lesseps, che non ha aspettato il consenso del sultano di Costantinopoli, ma ha iniziato i lavori con il semplice consenso del viceré d'Egitto, per ottenere poi in un secondo tempo anche l'assenso del sultano, che ha, nonostante l'ostilità britannica, ha dato il via libera. E in soli 10 anni il canale è stato realizzato e inaugurato nel 1869. Negrelli a quel punto è stato totalmente dimenticato. I finanziamenti non sono arrivati e le cause del compasso della società poi? Ah beh, le cause della scomparsa, parto da questo, è stata la nazionalizzazione fatta da Nasser nel 1956. I finanziamenti sono arrivati da tutta Europa, ma per esempio l'ostilità di Buol-Schauenstein ha impedito che il 20% delle azioni che avrebbero dovuto essere collocate all'interno della monarchia asburgica fossero state assunte solo dal banchiere Pasquale Revoltella, perché il governo ha vietato, il governo viennese ha vietato ai finanziatori austriaci di finanziare l'opera. Quando Revoltella se l'è trovato sul groppone da solo, perché aveva promesso alle SEP che avrebbe assorbito il 20%, ha vissuto un momento drammatico e ha trovato modo di collocarle in diverse altre parti d'Europa. La maggior parte degli azionisti era francesi, però erano sparsi in tutta Europa. E diciamo così che Negrelli inizialmente aveva avuto la assicurazione da parte di Lesseps che, in quanto coprogettista, avrebbe avuto diritto a 5 azioni di fondazione. E da lì è iniziata una contesa incredibile, perché alla morte di Negrelli cosa fa Lesseps? Per tramite di Revoltella e del fratello della vedova, quindi del cognato di Negrelli, si fa rilasciare dalla vedova stessa una sorta di rinuncia. Non è una rinuncia, dice: ti do 25.000 franchi francesi come riconoscimento del lavoro di tuo marito. E lei firma. A quel punto praticamente Lesseps usa questo documento come rinuncia alle azioni di fondazione che, di cui Negrelli avrebbe, e gli eredi avrebbero avuto diritto. Una delle figlie di Negrelli intenta alla Compagnie de Suez una causa che dura diversi anni per il riconoscimento di queste azioni, ma arriva fino al grado supremo di giudizio e dicono: ma tua madre ha firmato, ha accolto, ha accettato questo riconoscimento e quindi non ha diritto al risarcimento. Perché era interessata? Perché le azioni di fondazione rendevano semplicemente il 2000%. Erano le classiche galline dalle uova d'oro. Perché dopo i primi anni in cui le entrate, i profitti della Compagnie Générale erano piuttosto incerti, dopo hanno cominciato ad essere stratosferici. E non per niente Nasser l'ha poi nazionalizzato. Grazie a tutti, grazie ad Andrea Leonardi, ad Andrea Buonoldi, ad Alice Rigler, se ci sente ancora. Grazie a voi per l'attenzione e grazie di nuovo alla Biblioteca Claudia Augusta. Alla prossima occasione. Grazie Francesca, ciao.